Vorrei champagne e un pianoforte qui in camera, accompagnare questa chanson. Ma che significa non lo so, da che t'ho vista a Paris. Certi termini en français, lo sai, mi mandano in tilt e non capisco perché. La vita è una pallina sopra la roulette, chissà, chissà, chissà dove si fermerà. Ma se la vita è un gioco e il bello dura poco, lasciami godere quel poco che ho di te. Al pianoforte è più facile accompagnarsi in un pezzo come la crema ai pignè. Pallina sopra la roulette, che mai nessuno sa dove si fermerà. Ma forse il non sapere che rende più speciale l'incontro di due singole metà, io e te. Noi siamo solo due stranei, siamo due anime libere, abbandonati sul mio sofà. E voilà, senza una colpa incontrarsi e poi rotolarsi in un sogno, non domandarsi del poi. Ci rivediamo se vuoi, ci facciamo del male noi, ci rivediamo se puoi, ti va, ma buonanotte, au revoir.